Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Rimasi sorpreso da questa sua improvvisa richiesta, ma riflettendoci un attimo risposi: sì, in effetti, se ci fosse della musica mi piacerebbe camminare ascoltandola. Sai perché ti chiedo questo? Disse. No, perché mio padre ha pensato di realizzare un piccolo riproduttore di cassette di musica, così che ognuno di noi possa sentire solo la musica che vuole, ascoltandola con delle cuffie. Mi chiamo Alberto Lafranchi e ho 55 anni. Vivo a Erba e lavoro all'Istituto Tumore di Milano, dove mi occupo di radiologia, e poi ho organizzato insieme ad altri medici un gruppo sulle terapie complementari che si chiama Meteco. Siamo nel 1975 e la scena è questa. Ronald Reagan, allora non ancora presidente degli Stati Uniti, è connesso in chat con Edward Said e Jane Fonda. Non è l'inizio di una fiction e nemmeno di una barzelletta. Questa conversazione è realmente accaduta. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti in quell'anno ha deciso di testare una nuova forma di comunicazione attraverso i suoi computer collegati in ARPANET, che sta per Advanced Research Projects Agency Network. E ha contattato diversi personaggi della cultura, dello spettacolo e della politica per sondare le potenzialità del nuovo medium. L'applicazione era ancora agli inizi e aveva una capacità sintattica illimitata, ad esempio la punteggiatura era limitata ai soli punti. In realtà Jane Fonda arriverà tardi all'incontro via chat, mentre Edward Said, studioso, e Ronald Reagan, che disse «Chiamami Ron, mia moglie mi chiama così». Insomma, i due svilupparono in pochi minuti un'intensa e informale conversazione sulle possibilità di quel mezzo. Reagan ne intravide subito le implicazioni commerciali, Said quelle sociali. Ed è proprio Edward Said che ad un certo punto, come illuminato, colse il valore di quello che aveva tra le mani e disse: «La forza di questo strumento sta nel network. Il network è il messaggio di questo medium. E agli studenti, scrive Said, dovrebbe essere data la possibilità di cogliere questa opportunità». Oggi si parla di invenzioni. Si parla di invenzioni e quando abbiamo letto questo racconto, abbiamo letto il racconto di Alberto, a Tiziano è venuta in mente subito questa cosa che accadeva nel 75, esattamente 37 anni fa, quando il Dipartimento della Difesa, questa cosa è una cosa che più o meno si sa, no? Che internet è nato al Pentagono, più o meno, perché veniva usato internamente dai militari, anche se si erano appoggiati a delle università per inventarlo. Insomma, per testarlo lo diedero in mano dei personaggi che erano appunto questo studioso ricercatore che si chiamava Edward Said, a Jane Fonda, che in realtà non arriva mai, e a Ronald Reagan, che sono collegati ciascuno a casa propria, più o meno nel proprio studio dove si trovano in quel momento. E succedono diverse cose. La prima cosa è che banalmente Ronald Reagan e Edward Said, che non si conoscono, cominciano a darsi del tu. E quindi c'è una forma di, come dire, orizzontalità del mezzo, quasi un socialismo reale della chat, più o meno. E poi quello che succede è semplicemente che a un certo punto lo studioso dice: This is network, questo è il network, che appunto probabilmente è un'invenzione che adesso abbiamo tutti quanti sotto gli occhi. Tiziano è riuscito anche a trovare proprio un pezzo di quello scambio via chat e ve ne leggo alcuni passaggi perché sono molto interessanti. Ed è il momento in cui loro capiscono qual è il valore della chat. Reagan dice: sì, effettivamente c'è del valore in questo strumento. Said: quali benefici pensi potrebbero esserci, Ron, in queste maggiori connessioni con il mondo? Reagan: personalmente forse potrei mantenere più facilmente i contatti con gli amici lontani, ma preferisco le relazioni faccia a faccia per fare il mio lavoro. Sembra una buona opportunità per fare business, ovviamente. Reagan va diretto lì. E Said dice: se uno dei miei studenti volesse andare in Iran per fare ricerca ma non potesse permetterselo, potrebbe usare questo strumento per discutere con gli studenti iraniani online, ad esempio. Questa è una grande invenzione per gli studenti. Immense reti di studenti, reti, network. Questo strumento significa soprattutto questo: reti e connessioni. I giovani dovrebbero essere messi nelle condizioni di sfruttare questa opportunità. Reagan gli risponde: si rischia di perdere il controllo, secondo me. E Said: i giovani sfrutteranno questa cosa in modi che noi nemmeno immaginiamo. Reagan: non ho dubbi. Said: sei d'accordo con me, Ron? Reagan: beh, sì. E Said chiude dicendo: le cose che realmente cambiano il mondo non sono prevedibili. Chi lo sa? Questa è una delle più grandi invenzioni immateriali probabilmente del secolo scorso, era il 1975 e si inventava la chat. Ma oggi aprite bene le orecchie e il vostro telefono, 349-238-6666, oppure il profilo Facebook del programma, appunto a proposito di reti, che è Matteo Caccia, io sono qui. Se avete inventato qualcosa... Beh, aspettate però, fermi un secondo, abbasso un attimo la base, Paolino. Non sto parlando agli inventori, cioè non sto parlando solo agli inventori, perché io so che se apriamo il canale inventori non ne usciamo più, ok? Io sto semplicemente dicendo che se avete, chiunque di noi ha una parte folle che inventa delle cose, per cui se avete inventato qualcosa, qualsiasi cosa, che sia il modo più veloce per cuocere una pizza, il modo per stappare una bottiglia di champagne senza usare le mani, qualsiasi cosa sia, oppure uno strumento vero e proprio che avete brevettato, 349-238-6666. Se avete anche una foto di un oggetto, caricatela sul profilo Facebook, è sempre Matteo Caccia, io sono qui. Vi faccio qualche esempio. Gennaro, io ne avrei di invenzioni mai partite. La prima che mi viene in mente è la sigaretta con dello zolfo alla punta e una striscia sul pacchetto per accenderla senza bisogno dell'accendino. Me la perdo sempre o peggio me la fregano. Gennaro, non credo te l'abbiano fregata perché ancora in giro non l'ho vista. Caterina, mi vergogno un po' a dirlo, può sembrare banale, ma ho adottato una tecnica per la manicure. Mettermi lo smalto prima di guidare, quando ho già addosso il cappotto, la porta aperta e le chiavi infilate nella serratura pronte per chiudere la porta, così mentre sono al volante si asciuga lo smalto. E ancora Raffaella, se annodo i calzini prima di metterli in lavatrice li trovo già appaiati. Tommaso, apro le bottiglie d'acqua ruotando il fondo invece del tappo. E ancora ce ne sono diverse, questa è geniale. Giorgia, quando mio padre era ragazzo e al mare voleva ascoltare la radio sulla boa, aveva inventato un sistema per trasportarla, metterla in un contenitore di plastica rigido e sigillato. Probabilmente molti altri hanno avuto idee anche migliori per ascoltare la radio sulla boa, ma mio padre ha raccontato questa storia talmente tante volte che mi pareva doveroso da scriverla. Giorgia, la domanda è: non credo che ci siano tante persone che volessero ascoltare la radio sulla boa. E poi che boa era? Io ho presente la boa a mo' di gavitello, no? Quella di due coni rovesciati. Non saprei nemmeno dove appoggiarla la radio sulla boa. Tant'è, 349-238-6666. Oggi si parla di invenzioni. Era la mattina del 9 agosto del 1978. Insieme a Vincent, un ragazzone giapponese di 19 anni, giacca di pelle nera, Ray-Ban da pilota, jeans e scarpe da jogging, camminavo sotto il sole per raggiungere il centro sportivo di Leytonstone, quartiere di Londra dove abitavamo. Mentre camminavamo, improvvisamente Vincent si girò verso di me, mi guardò negli occhi ed esclamò: «Ma a te, Alberto, non manca niente». Io mi fermai, mi osservai, controllai la borsa da tennis e dissi: «No, mi sembra di avere tutto con me. Tu forse hai dimenticato qualcosa? Dobbiamo tornare a casa?» «No, no», disse Vincent, «non intendevo questo. Io intendevo dire, se a te non manca la musica, la tua musica». Io rimasi un po' sorpreso da questa improvvisa richiesta, però riflettendoci un attimo risposi: «In effetti sì, se ci fosse della musica mi piacerebbe camminare ascoltandola». «Sai perché ti chiedo questo?» disse. «No, perché mio padre ha pensato di realizzare un piccolo riproduttore di cassette di musica, così che ognuno di noi possa sentire solo la musica che vuole ascoltandola con delle cuffie». Ero a Londra a studiare inglese e Vincent frequentava la stessa casa che frequentavo io, quindi eravamo dalla stessa lady. Lui frequentava in maniera molto più seria l'università, studiava fisica. Io invece ero semplicemente lì a studiare inglese in una scuola per stranieri. A me sembrava una cosa assurda, è che però da uno che aveva chiamato la sua società con un nome così strano ci si poteva aspettare di tutto. Allora glielo chiesi a Vincent come mai suo padre aveva chiamato la sua società con quel nome lì, con quella parola. E lui mi rispose che le ragioni erano tre. Suo padre e il suo socio erano partiti subito dopo la guerra con una società di apparecchi elettrici per la pulizia della casa, negli anni 50. Ma siccome suo padre aveva sempre amato la musica e pensava di costruire radio per diffondere la musica a tutti, allora voleva che anche il nome della società facesse subito capire che in qualche modo la musica era un obiettivo societario. Quindi nella scelta del nome aveva seguito tre parole, tre regole. La prima è che la parola non fosse storpiabile, ma leggibile uguale in tutto il mondo. La seconda, che visto che si trattava di musica, contenesse la voce latina sonus. la terza che ricordasse in qualche modo il senso di riscatto e voglia di vivere dei giovani giapponesi, i cosiddetti Sonny Boys. La fusione delle parole portò quindi a decidere per la parola Sony, che divenne il nome della nuova società. Le nostre passioni erano sportive, per cui ci incontravamo per giocare a tennis piuttosto che a ping pong, piuttosto che fare attività sportiva. Poi io ho come passione la fotografia e poi devo dire che il mio lavoro è una passione, nel senso che fare l'omeopata o l'omotossicologo al giorno d'oggi sui malati lo vivo come se fosse quasi una vera passione. Quel giorno giocammo quindi a tennis, ma Vincent, sentendosi inferiore, mi chiese di giocare a ping pong, dove si riteneva il più forte. Tolse le scarpe e iniziò a giocare a piedi nudi. Dopo 6 partite, quasi tutte finite ai vantaggi, io conducevo per 5-1. Ormai ero stanco e pensavo di smettere, ma Vincent insistette per giocare altre partite, fino al punteggio finale, 6-5 per lui. Tutte sempre vinte ai vantaggi. Fu allora che conobbi per la prima volta nella vita la volontà e la grande perseveranza giapponesi. A fine agosto la mia permanenza a Londra finì e così ci salutammo. Io tornai a Como, dove vivevo. Non rividi mai più Vincent e un po' mi manca. Nell'ottobre del 78 la Sony lanciò sul mercato mondiale il suo primo Walkman a cassetta. Ci sono le scoperte e le invenzioni. L'oro, ad esempio, è una scoperta, il motore a scoppio è un'invenzione. Questo me l'hanno insegnato sin da piccolo. E all'epoca tutti mi hanno detto che quel che trovi non è merito tuo, ma è solo fortuna. E invece quel che fai lo è. E così, ad esempio, la ricchezza di chi è nato su un serbatoio infinito di petrolio o di diamanti è più sterile di quella che si costruisce con la creatività e l'ingegno, che è fertile. E io ci ho creduto e mi sono appassionato fin da piccolo alla figura di chi inventava, molto di più di chi scopriva. Cioè, per me in una gara tra l'esploratore e l'inventore vince sempre l'inventore. Benjamin Franklin batte Livingstone o Cristoforo Colombo nella mia classifica. È perché le cose sconosciute mi fanno paura alla fine, mentre quelle che non esistono mi affascinano. Dopo aver letto la storia di Vincent, mi sono andato a studiare un po' di invenzioni che hanno cambiato il mondo che conosco. Non la ruota o la pastorizzazione, è qualcosa di più vicino. Partendo proprio dalla musica. Perché c'è stato un tempo in cui per ascoltarla dovevi andare a teatro, oppure rirre e ti facevi arrivare i musicisti in casa, oppure ti compravi un carillon. Però un giorno qualcuno ha inventato il modo di riprodurre la musica a distanza di tempo da quando era stata suonata. E fu Thomas Edison a inventare il fonografo. Era l'inizio del Novecento. E da lì in poi è stata tutta una veloce corsa verso l'iPod che abbiamo in tasca e che ci consente di sentire con una qualità meravigliosa tutto quello che vogliamo. Su come le invenzioni e la tecnologia in genere abbiano cambiato il mondo, hanno scritto talmente tanti libri che non dirò più una parola, ma ci sono cose che mi divertono, come andare a pescare i motivi che hanno spinto qualche geniale tizio a studiare nuovi modi di combinare oggetti, senza sapere il risultato finale e forse senza nemmeno averlo immaginato prima. Intendo dire, per chi ha visto The Social Network, il film, è abbastanza chiaro. Facebook, no? È un'invenzione dei nostri tempi, no? Cioè di quelle che non sono oggetti, tipo il frigorifero o il motore a reazione. Insomma, Facebook è nato per un motivo molto semplice, molto banale. Per incontrare le ragazze. Anzi, è nato per fare una classifica delle ragazze che valeva la pena incontrare. E detta così non è che sia una grande motivazione etica, no? Per il bene dell'umanità. E chi se ne frega anche. Però è andata così. D'altronde internet, appunto, no? Dicevamo, è nato per ragioni particolari legate alla guerra, no? Cioè era una rete che mettesse in comunicazione dei computer per organizzare meglio le manovre. Fu finanziata dall'esercito americano, si chiamava ARPANET, come dicevamo prima, ed erano gli anni 60, gli anni 70 più o meno. Che poi alla fine è stato tutto un bene comune, no? Anche se qualcuno dice che in realtà è stato un male. Però alla fine è andata bene a tutti. Ci sono anche invenzioni che nascono da situazioni ridicole, come quella per cui è famoso Nobel, avete presente, no? Quello del premio. che lo sanno tutti che è famoso perché ha inventato la dinamite, no? Insomma, è andata così. Lui era nel suo laboratorio e trafficava con la nitroglicerina, che però era molto delicata. E lui voleva capire come usarla senza ammazzare tutti. Solo che a un certo punto gli cade un'intera fiala per terra. E invece di esplodere, morire e andare nel dimenticatoio, Nobel si salva. E si salva perché per terra nel laboratorio c'era della segatura, che per qualche motivo chimico rendeva la nitroglicerina stabile. E così per sua fortuna non solo non è morto, ma è diventato anche uno dei nomi più conosciuti al mondo. O il forno a microonde, ad esempio. L'ha inventato uno che stava studiando delle onde radar. Ed era lì che accendeva e spegneva aggeggi e aveva un pezzo di cioccolato in tasca. E quel cioccolato si era fuso e gli aveva fatto tutti i pantaloni marroni. Che poi, in verità, si stava fondendo anche lui, signor Spencer in persona. Solo che capì che non erano onde radar quelle che stava studiando. Erano un'altra cosa. E che ora serve per scaldare la mia cena. Secondo me ce ne sono un sacco di invenzioni nate per caso, come quella famosa della penicillina, ad esempio. Solo che non ce la raccontano perché perderebbero il loro fascino. La sostanza però rimane quella. Ed è che chi ci prova prima o poi ci riesce, anche se non sa bene a fare cosa. When I look into this light, I've got something to tell you. I've never been the one to hide how I feel. Rivendico i diritti sul pannolino con il sensore per la cacca. Se si illumina, cambio. Asciugare il kimono di judo il giorno della gara nel forno a microonde. Ma basta lavarlo il giorno prima, no, Katia? Tuta antifuoco in buccia di arancia. È difficile da rammendare, ma quando riesce quanto resiste al fuoco non ce n'è. Ciao Matteo, io brevettai la segreteria citofonica, ma senza fortuna, chissà come mai, arrigo. E me lo domando, e sinceramente me lo domando anch'io, com'è possibile che la segreteria citofonica non abbia avuto tutto il successo che meritava, tra l'altro, no? Cioè tu tornavi a casa e trovi un messaggio. Ciao Matteo, sono passato per lasciarti una roba. Ah, peccato che non ero in casa. Grazie Arrigo. La segreteria citofonica. Ma c'è qualcuno che è stato testimone di un cambiamento epocale nella storia della musica, oserei dire, ed è al telefono con noi. È Alberto. Pronto Alberto? Eccomi. Ciao, come stai? Bene, bene, grazie. Dove ti trovi? Al lavoro? Sì, sono al lavoro. Ma quindi, quindi hai su quelle cose che hanno i radiologi gialle? No, verdi? I camici? No. Cioè, se vestito normale, normalissimo. Poi avete però qualcosa per proteggervi dalle radiazioni? Sì, oppure quando... uscite? No. Quando i radiologi che fanno radiologia interventiva hanno dei camici di piombati, quindi gomma piombifera. Senti, che... Alberto, poi andiamo al racconto, però c'è una curiosità che mi voglio togliere. Perché quando vado dal dentista e mi fa la lastra per vedere se ho cosa ho ai denti, mi lascia lì ed esce dalla porta? Cioè, non mi sembra carino, mi sento un po' solo quando lui mi fa sta roba. Ma è solo una questione di radioprotezione. Cioè, lui si protegge, nel senso che lui lo fa tutti i giorni, per magari 10 volte al giorno, io una volta ogni 6 mesi. Esatto, ma perché i raggi, una volta che ti colpiscono, si diffondono per tutta la camera. Ok. E quindi... Vabbè, guarda, non andiamo oltre perché altrimenti non vado più a fare una lastra in vita mia. Alberto, tu non hai inventato nulla nella tua vita? No, non dirlo così però, ti prego, stai su Alberto, perché mi sta tenendo un po' il coccolone con questo tono. No, non ho inventato niente da un punto di vista di mia invenzione. Senti, invece mi spieghi cos'è l'omotossicologo? L'omotossicologo è un medico che ha studiato appunto l'omotossicologia, che è una scienza che studia le intossicazioni dell'uomo. E quindi è partito negli anni 50 ed è una scienza interessante perché attraverso la disintossicazione si riescono a guarire, o comunque aiutare l'organismo a guarire senza utilizzare i farmaci più comuni, convenzionali. Guarda, mi piace questa puntata perché improvvisamente sembriamo essere benessere di Nicoletta Carbone alle 4 del pomeriggio, ma soprattutto perché, Alberto, quando ieri sentivo più o meno degli ingegneri al telefono, ho la presunzione di riuscire a riconoscerli, ma devo dire che il tuo tono di voce è veramente quello di un medico. Cioè potresti dire qualsiasi cosa terribile con questo tono, come se... Ma sì, dai, alla fine però, no? Siamo qui e in un modo o nell'altro ce la caviamo, più o meno. Senti, invece dimmi cosa ti ricordi di Vincent e di quel momento storico della tua vita anche. Sì, di Vincent di Vincent ricordo appunto questa sua, questo, beh, insomma, eravamo molto giovani, lui aveva 19 anni, io poco di più, per cui me lo ricordo giovane, pieno di vita, di voglia di costruire, e poi me lo ricordo come una persona estremamente intelligente, perché tu immagina a 19 anni essere in uno dei collegi più prestigiosi di Londra, un po' come essere alla Normale di Pisa, come possibilità di entrata, quindi aveva fatto dei test, degli esami, quindi una persona estremamente intelligente. Quindi diciamo quella cosa lì del padre non viene a caso, era genetica probabilmente. Ma io penso che fosse ben stata trasmessa, il padre sicuramente è stato un uomo geniale, lo si sa, è noto alle cronache, però insomma anche Vincent era ben messo. Ma la prima volta che hai avuto in mano un Walkman, Alberto, ci hai pensato o...? Beh, sì, indubbiamente, cioè quando lui mi ha raccontato questa storia dell'idea del padre di portare in giro la musica, la propria musica, che io ho immaginato subito fosse tratta da un'idea di film, insomma, cioè i film hanno tutti una colonna sonora. Lui amava la musica e probabilmente ha pensato, ma perché non trasporto la colonna sonora anche nella mia vita di ciascuno? Certo. E allora ha pensato di farlo senza disturbare gli altri, perché la radio, che già costruivano, in fondo avrebbe disturbato gli altri, perché la radio... Certo, perché viene diffusa per tutto l'ambiente. E poi soprattutto non senti la tua musica. Invece la sua idea era quella di sentire la tua musica. Alberto, senti, io ti ringrazio moltissimo per il racconto, come al solito, per la chiacchiera, però se è possibile, visto che mi dai tutta questa serenità, nel caso mi dovesse venire anche un raffreddore, io ti chiamo. Sì, chiamami, certamente. Grazie mille, buona giornata. Prego. Ciao Alberto. Ciao, grazie. Mi sono inventato una storia con Bo Derek. Non era vero, ma oggi ne conservo dei ricordi bellissimi. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato Alberto e che trovate sempre sul sito dove c'è la mappa di Voi siete qui, sul sito di Radio 24, Alberto è veramente elegante. Ha come sfondo un muro esterno, casa mia Romentino ha questi muri qua, quei muri un po' grattati. Non saprei dire com'è la tecnica, giallognolo più o meno, ma lui è elegantissimo, ha un abito blu gessato, una camicia azzurra, mi piacerebbe tanto dire che ha la faccia da medico, ma non è vero, ha la faccia di quel senatore o deputato del PDL, che adesso non ricordo, magro, che è un avvocato, non è Ghedini, è un avvocato e si chiama Paniz, assomiglia a Paniz del PDL, l'ho beccato. Andate a vedere, ditemi se non è così. Ce l'avete presente? Bonini non è presente chi è Paniz. Marco Tulli sicuramente ce l'ha presente. 349-238-6666. Si parla di invenzioni, piccole o grandi. E c'è questo scambio meraviglioso che è arrivato sul profilo Facebook del programma, che io vi devo leggere. Per quello che vi dicevo, perché non sono folli le persone che inventano delle cose, è che ognuno di noi ha un lato folle. Luigi: a casa mia abbiamo inventato il codice lavastoviglie. Dunque, noi siamo in quattro, tenetevi forte. Noi siamo in quattro e tutti un po' addicted alla lavastoviglie, per cui diamo una bella sciacquata a mano alle stoviglie prima di inserire nel cestello. Se c'è una roba che mi fa innervosire sono quelli che lavano i piatti prima di metterli in lavastoviglie. Il problema è che a volte non capiamo se le stoviglie sono già lavate o no. Certo, perché se le lavi prima è abbastanza difficile. La trovata geniale mia, scrive Luigi, è stata quella di mettere subito il detersivo a... Allora aspetta, è stata quella di mettere subito il detersivo appena tolto l'ultimo piatto lavato e chiudere il micidiale sportellino verde. Chi arriva, se trova lo sportellino chiuso, sa che i piatti sono sporchi, mentre se aperto possono andare in tavola. Insomma, una specie di switch a due vie, chiuso da lavare, aperto, pronti per l'uso. È l'unica cosa che ho capito della qualità totale Toyota, scrive Luigi. È folle completamente. In questo modo si risparmia per circa il 40% delle stoviglie e un inutile viaggio fino al pensile e dal pensile alla tavola. E tu dici, vabbè, è finita qua. E invece no, perché c'è qualcuno che gli risponde. Andate a vederlo, è tutto sul profilo del programma. Andrea: tu pensa, io ho sempre pensato che per vedere se qualcosa è stata lavata bisognasse guardare l'oggetto, cioè i piatti sporchi e lo sportello aperto. E Luigi gli risponde: lo sportello è sempre aperto per favorire la circolazione dell'aria. Aperta parentesi, tranne che nel ciclo lavaggio, naturalmente. Il problema nasce dalla energica sciacquata propedeutica che noi diamo prima di mettere lavastoviglie, perché quella non va fatta, altrimenti li lavi a mano. In pratica, prima del codice lavastoviglie non eravamo mai sicuri. A questo punto qualcuno dirà: ma allora lavateli a mano. Giusto, ma ci vuoi togliere il divertimento? Il nostro è una specie di wiki lavaggio dei piatti. Io dopo questa ringrazio Luigi e tutti quelli che scrivono sul profilo Facebook del programma. Andate a vederlo, questo scambio, vi giuro, è là ed è la dimostrazione che, no, secondo me, guarda Tiziano, non sono nemmeno ingegneri questi. Luigi non è un ingegnere, non ha la faccia da ingegnere, è semplicemente che ognuno di noi c'ha quella parte folle. Torniamo alle invenzioni serie, parliamo del telefono, parliamo questo cosa che vi sto per leggere è tratto da un libro che si chiama Breve storia della vita privata, è un libro molto bello di Bill Bryson, edito da Guanda, e tra le varie cose, tra le varie invenzioni di cui si parla dell'invenzione del telefono. Graham Bell nacque nel 1847. Bell cominciò a insegnare fisiologia vocale alla neonata Università di Boston. Dalla sua aveva in realtà soltanto uno spiccato interesse per il campo della comunicazione, che condivideva con il resto della famiglia. Sua madre era sorda e suo padre era un esperto mondiale di linguaggio ed elocuzione, in un momento in cui quest'ultima veniva vista con una sorta di timore reverenziale. Bell cercava un modo per amplificare elettricamente il suono, per ovviare ai disturbi dell'udito. Presto però si rese conto che le sue ricerche potevano servire anche per inviare le voci a distanza, creando quelli che lui chiamava telegrammi parlanti. Per portare avanti questo nuovo filone di ricerca, assunse un giovane di nome Thomas Watson e insieme a lui cominciò a dedicarvisi dall'inizio del 1875. Poco più di un anno dopo, esattamente il 10 marzo del 1876, in un piccolo laboratorio al numero 5 di Exeter Place a Boston, si verificò l'episodio più famoso della storia delle telecomunicazioni. Accadde quando Bell, che stava sperimentando un apparecchio per aiutare appunto le persone con problemi di udito, si rovesciò dell'acido in grembo e sbottò: «Watson, venga qui, ho bisogno di lei!» E uno sbigottito Watson lo udì chiaramente, ma da un'altra stanza. Ecco, questa quantomeno fu la versione che lo stesso Watson diede 50 anni dopo in una serie di annunci pubblicitari per commemorare l'invenzione del telefono. Qualunque fossero state le circostanze precise, le annotazioni di Bell confermano che avesse chiesto a Watson di andare da lui e che Watson avesse udito chiaramente la richiesta da un'altra stanza. Era stato creato il primo telefono della storia. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, let us all say. Roberta scrive: ciao, mi chiamo Roberta, ho inventato una modifica per i miei reggiseni. Adesso il mio seno da cinquantenne sembra quello di una ventenne. Però vorremmo capire come, cioè che tipo di modifica hai fatto, Roberta. Cioè, se è una cosa che possono fare tutti oppure è un segreto che tu vuoi tenere. Matteo, mi scrive Armando da Pescara, io sono un ingegnere chimico, mi sono laureato con colui che ha inventato l'algoritmo che attribuisce il codice fiscale. Wow, questa è roba forte, ma... scusa, ma che algoritmo è? Basta prendere le prime consonanti del nome, le prime consonanti del cognome, le prime consonanti del nome, la data di nascita. Sembra facile. Ah, Armando, mi sa che hai ragione tu. Ciao Matteo, sono Stefano, chirurgo. 10 anni fa ho brevettato in Italia uno strumento chirurgico mai prodotto. 5 anni dopo, a un congresso, l'ho trovato prodotto dai tedeschi e hanno cercato di vendermelo. Il bello è che aveva pure il mio nome. Ma perché, scusami, i brevetti sono solo... evidentemente sono solo nazionali, mi sembra di capire. O forse... vabbè, chi lo sa. 349-238-6666 è un po' come la SIAE, insomma, no? Cioè che tu inventi una cosa, la metti lì, poi la SIAE fa delle robe, insomma, non capisci bene esattamente cosa faccia con quella roba lì. Piglia dei soldi, poi te li ridà, poi se li ritiene. E per i messaggi fuori contesto, grazie a non so chi che scrive: a Parma, secondo me, non si gioca la partita di stasera a causa neve. Salve Garanzini. Guarda, passerò a Gigi che ha ancora là la sua scrivania, però ti confesso una cosa, ti confesso la verità, secondo me a Garanzini non gliene frega niente che giochino o non giochino stasera. ho inventato uno strumento per la verifica della qualità degli occhiali da sole. Si chiama Opti Tester e ne ho venduti in tutto il mondo. Marco, dimmi che sei diventato ricco, Marco. Dimmi che c'è qualcuno che ha inventato qualcosa per cui è diventato ricco. Poi giustamente qualcuno mi scrive, sì, ma... vabbè, sì, ma lo zio della lavastoviglie si è devastato di pastiglie. Non è male questo. Lo zio della lavastoviglie, per chi non lo sapesse, è uno slang che sta per il tizio. Ma vuoi vedere che zio sta proprio per una tizio? No, Bonini, t'ho trovato l'etimologia in diretta. Zio sta per tizio. O se no sarebbe stato vabbè, niente. 3492386666. Ma soprattutto voi siete qui, @radio24.it, per mandare le vostre storie. Vi ricordo che cosa serve. Molto semplicemente serve un episodio della vostra vita, come quello che ha raccontato Alberto, che gli è accaduto 30 anni fa, che magari non c'entra con voi, ma in qualche modo racconta qualcosa di voi. Una pagina, se volete mandate già direttamente una foto, la inviate a voi siete qui, @radio24.it. L'ultimo messaggio di Joseph. Matteo, dopo aver sentito dello scambio di opinione sulla lavastoviglie, ho un po' paura di far parte dei tuoi ascoltatori. Joseph, pensa a me, che sono da questa parte. Grazie a Tiziano Bonini, Paolino Corleoni, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. La storia di oggi era la storia di Alberto, parlava di invenzioni, quella di domani è di Alessandro e parla di partenze. Mi sono tornati alla memoria molti pensieri legati alla mia vita. Alcuni piacevoli, altri meno, ovviamente. Ma tutti erano legati a una partenza. Partire, salpare, alcune volte da porti affollati, altre volte da approdi più intimi. Anche quando prendevo il treno o la corriera per andare prima a scuola e poi all'università, quando prendevo la bici per il lavoro era partire. E alla fine della storia ho capito una cosa. Tutte le volte che ti chiudi la porta di casa alle spalle, vuol dire partire. E certo per ogni andata c'è un ritorno, ma ogni volta è diverso.